non capo candidà, se mi porti sul Carpi, una posta lì, ma se mi porti tre squadre che marcano questo, fra 2 anni, 3 anni, non ci avremo più la vita, sanno manco le tizie così noi. Lo so. Il Carpi. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Alessandro la mette tesa, Cuadrado! La Juve la sblocca con Cuadrado! Se ne va Morata al limite, Morata allarga per Dybala, per chiuderla Dybala! 2-0 Juve, la firma di Dybala! Higuain segna, Napoli sogna al 24esimo della ripresa! Hai capito, caro Carlo, i Lotitos Boys, le squadre di Lotito, le avevamo evocate venerdì per esattamente 70 minuti, 69, fino al gol di Cuadrado, hanno tenuto in scacco Napoli e Juventus. Pensa che storia che sarebbe stata. Sarebbe stata una bella storia arrivare con lo stesso distacco, ma dopo 2 pareggi con i Lotitos Boys. Poi quest'uomo qui, che adesso sentiamo ai microfoni di Sky, intervista post partita, Cuadrado ha spezzato l'equilibrio, poi è arrivato il gol di Higuain. Sentiamo Cuadrado. Contentissimo per la partita che ha fatto la squadra. E come ho detto prima, no, c'era molta euforia della gente senza giocare la partita. E pensavano già che magari era facile per noi, invece Frosinone ha fatto una grandissima partita e ci ha messo in difficoltà perché stavano difendendo molto bene, però alla fine quello che conta è il risultato e l'abbiamo fatto, grazie a Dio. 14 poi Cuadrado ci ha messo una pezza, poi è arrivato il rigore di Higuain, poi è arrivato il gol di Dybala. Sì, ha giocato molto bene, casca per terra con una certa frequenza. Cuadrado sì, anche troppo. Vittorio Reggia, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Direttore. Ciao. Buon pomeriggio. Poi, io lo voglio dire, 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19, ci chiamate, ci dite cosa ne pensate. 349-238-6666, sms, whatsapp. Poi, meno male che sono arrivati questi gol, così Doveri e Massa hanno evitato di regalarci una settimana di veleni, perché il livello di direzione di gara, soprattutto di Napoli-Carpi, ma in parte anche di Frosinone e Juventus, sono stati al di sotto dell'accettabile. Non so cosa ne pensi tu. Molti errori in tutte e due le partite. Direttore. Beh sì, ci sono stati tanti errori. Fortunatamente, come hai detto tu, sono arrivati i gol e questo mette un po' tutto a tacere. Non dico a tacere, ma comunque mette la sordina a quello che potevano essere delle proteste e i veleni di una settimana, perché no, sarebbe stata una settimana infernale. Mamma mia. Noi lo diciamo non perché ci dispiace, siamo contenti, perché insomma siamo arrivati a febbraio, da qui in poi è lecito secondo me pretendere dagli arbitri maggiore attenzione, da chi li disegna maggiore attenzione, e invece sinceramente è qualche settimana che le cose stanno andando un po' meno bene del solito. C'è Allegri su Mediaset Premium, così lo sentiamo subito. Allora sentiamo Allegri dopo la vittoria della Juventus a Frosinone. Si aspettava tutte queste difficoltà. Ma abbiamo avuto subito all'inizio 2 occasioni, una con Morata che non ha chiuso un cross di Sturaro e dopo Sturaro che era un po' troppo avanti su un cross di Alessandro. Poi abbiamo avuto difficoltà, il Frosinone ha fatto una buona partita difensiva, ci saltava addosso, noi nel primo tempo abbiamo avuto un po' di fretta nel cercare di fare gol, invece bisognava essere più lucidi e più calmi nel trovare le situazioni diciamo offensive. Il secondo tempo invece abbiamo iniziato bene, dopo il gol era nell'aria, anche se il Frosinone si stava difendendo bene. Ora si può pensare al Napoli, se diciamo che col Napoli non vorrà vedere certe cose che ancora si sono viste oggi, non so, il tiro forzato quando c'è l'apertura sul compagno, Pogba ad esempio, oppure il controllo un po' lezioso sulla propria tre quarti di campo, Morata nel finale? No, sono situazioni, a parte quando hai molti giovani in squadra ci sono delle partite in cui si fanno questi errori. Queste sono partite difficili da affrontare perché all'apparenza a detta di tutti sembra facile e scontate, ma così non è. Frosinone, l'unica volta che ha perso direi in maniera netta è stata con Napoli 5-1, e quindi avevo preparato i ragazzi una partita difficile. I ragazzi sono stati bravi, però abbiamo una settimana per preparare quest'altra partita con il Napoli e poi ne avremo altre 13 davanti, quindi il campionato è lungo. Bisogna rimanere... però quella col Napoli vale un po' di più, eh. Non una bella Juve, direttore. A me hanno colpito le parole di Cuadrado, forse avevamo in testa che queste partite si vincono facile, e tra queste metto anche quella di mercoledì col Genoa, che non è stata una meraviglia, non so come la pensi. Sì, hai ragione, io dico anche a beneficio di tutti che comunque quando si arriva a ottenere una striscia così lunga di vittorie, 14, vuol dire che tu hai dato tantissimo, hai speso tantissimo, e io credo che in questo momento la Juventus sia un po' stanca, sia una squadra stanca che sta probabilmente pagando la mancanza di alcuni elementi che possono in questo momento garantirle un turnover e quindi garantire a qualche giocatore più freschezza. La Juventus che abbiamo visto col Genoa è la stessa Juventus che abbiamo visto oggi, al di là del fatto che Frosinone si sia comportato benissimo, abbia fatto una bella partita, è una Juventus che probabilmente viaggia in quarta e non in quinta, o in quinta e non in sesta, dipende se uno ha un cambio a 5 o 6 marce. È anche comprensibile, è umano, però questo credo che questa debba essere una riflessione che accompagni la Juventus alla sfida contro il Napoli. Anche il Napoli non mi pare in una condizione straordinaria, almeno per quello che ho visto in televisione contro il Carpi, però io credo che forse proprio per il fatto che rincorrere più faticoso, la Juventus si presenti a questa sfida un pochino più stanca. Ma però anche il Napoli non ha dovuto rincorrere, ovviamente, ha fatto corsa di testa, però anche tenere dietro una Juventus che fa questa impressionante striscia di vittorie consecutive, io trovo che siano entrambe un po' stanche emotivamente. Credo però che le energie emotive per quella partita le troveranno. Credo che gli allenatori non debbano sforzarsi a creare motivazioni come invece hanno dovuto fare questa settimana, in questi ultimi giorni, per preparare rispettivamente le sfide contro Frosinone e contro il Carpi. E le motivazioni i giocatori in una partita così le trovano da sole. Certo, io ti ripeto, sarebbe stato più bello vedere questa sfida magari due settimane fa, quando avevamo il Napoli e la Juventus al top della gamma, al top della condizione. Sarà comunque una grande sfida che io non considero decisiva, però è determinante, perché se il Napoli dovesse vincere a Torino, insomma, 5 punti in classifica in più e la botta psicologica che darebbe alla Juventus, io penso che qualcosa potrebbe cambiare. Sì, credo sia l'unico risultato dei tre che potrebbe probabilmente essere il campionato, la vittoria del Napoli a Torino. Ma neanche chiudere, però essere comunque una, cioè avere un peso specifico molto importante, altri due risultati poco cambierebbero. Però sarebbe personalmente credo anche una sorpresa, cioè la Juventus dal 2011 a oggi ci ha abituato a una ferocia nell'affrontare queste partite qui. I dati li ripetiamo sempre, 23 ne ha giocate, 21 ne ha vinte, ne ha pareggiate, persa una con l'Inter nelle partite con le grandi, quindi però vediamo, sabato è un test per tutti. Io chiedo ancora un minuto di pazienza a Vittorio Reggia, perché c'è anche quell'immagine che secondo me deve preoccupare ulteriormente i tifosi della Juventus, quella del polpaccio di Chiellini in panchina, fasciato di ghiaccio. C'è qualche segnale di scricchiolio? 800 24 00 24, c'è il traffico, torniamo subito. Ho qualche dubbio. Tutti convocati. Tutti convocati. C'è un amico che scrive al 349-238-6666 se le voci su Allegri, il suo futuro, il Chelsea, le offerte da 10 milioni di euro a stagione in qualche modo possono destabilizzare o stanno destabilizzando la Juve. Vittorio Reggia. Io credo proprio di no. Adesso oggettivamente non penso che queste voci possano destabilizzare la Juve, soprattutto possano destabilizzare uno spogliatoio di giocatori, consentitemelo tra virgolette, col pelo, e un allenatore insomma che non viene dalla provincia ma ha allenato in grande squadra e quindi sa assolutamente che ci possono stare, del resto sta facendo bene. Sono anche normali che un grande club cerchi un grande allenatore. Io no? Credo che ad esempio Mihajlovic difficilmente può venire accostato al Chelsea, probabilmente è più facile che venga accostato Allegri. Detto questo, io non do assolutamente per scontata la permanenza di Allegri alla Juventus, perché magari se Allegri dovesse riconquistare lo scudetto e dovesse riapprocciare in una certa maniera la Champions League, ci potrebbe anche stare che insomma chiudesse il discorso con la Juventus e andasse a tentare l'avventura in Premier League, che tra l'altro ha sempre detto come Conte di essere il campionato, uno dei suoi campionati di riferimento. È chiaro che se tu in questo momento mi dici il prossimo anno vedi Allegri sulla panchina della Juve, io oggettivamente ti dico sì. No. Però dare per scontato, tutto per scontato. Però più di 50 centesimi non ci scommettiamo. Oltre non andiamo sul fatto che Allegri resti alla Juve. Fino a un caffè. Quindi arriviamo all'Eurino, insomma. Qualcosa sotto 90 centesimi se trovi un bar buono. No, quell'immagine invece di Chiellini, tanto sono tante che ci stanno scrivendo: Juve-Napoli non sarà decisiva, ma la vince la Juve perché comunque arriva meglio. C'è un altro amico che dice: ha fatto bene Allegri a smorzare le voci sul trasferimento al Chelsea perché così ha evitato l'effetto Manchester City-Bayern Monaco. E poi ancora invece Michi che scrive per la Juve è costretta alla vittoria domenica prossima e questo può essere un motivo di pressione in più, non so, anche questo è un tema su cui si può ragionare. C'è quell'immagine di Chiellini uscito abbastanza perplesso, si è seduto in panchina, polpaccio della gamba destra fasciato col ghiaccio. L'abbiamo vista tutti, del resto Chiellini era stato preservato nelle altre partite proprio perché non scoppiava di salute, non era lo spot della salute. È chiaro che in una difesa che ha anche fuori gioco Cáceres, se Chiellini dovesse star fuori, e il polpaccio, come tutti sappiamo, è uno di quei muscoli rognosi, più rognoso da guarire, beh, un problema sarebbe perché, insomma, Chiellini per la forza che ha è tanta roba. Sottolineerei oggi un altro colpo di pennello meraviglioso di Dybala sul gol del 2-0. Assolutamente sì. Altro gol pazzesco. Abbiamo sprecato gli aggettivi. Grazie direttore. Ciao. Grazie a voi. Grazie a Vittorio Reggia. Oh, poi c'è anche il Milan che si è suicidato con le sue mani pareggiando in casa contro l'Udinese. Poi sentiremo Sinisa Mihajlovic. Saluto Gigi Cagni intanto. Mister, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buona serata a tutti. Chi arriva meglio visto oggi allo scontro tra titani di sabato sera? Ma e aggiungo, ti sembrano più stanche fisicamente o emotivamente dopo la stagione che stanno facendo, 14 vittorie, e il Napoli che ha giocato sotto la stessa pressione perché doveva resistere, ha dovuto resistere alla Juventus in rimontra nelle ultime partite? Ma io penso che qualcosina in più alla Juventus sotto l'aspetto dell'esperienza, più abituata a vincere anche se in una situazione difficile come quella di oggi, fisica, mentale, contro queste squadre che chiaramente si chiudono e hai difficoltà a trovare il gol. Questo è valso anche per il Napoli, anche se il Napoli mi sembra leggermente meglio sotto l'aspetto fisico, ma sono allo stesso livello tutte e due le squadre. Sì, è difficile correre però così tanto. Oggi sono 102 giorni che la Juventus vince sempre in Italia, è complicato correre così tanto. Secondo me anche la sfida col Bayern, che a questo punto si avvicina, arriva non nel momento migliore. Forse l'apice della forma della Juventus è passato, almeno questa è un po' la sensazione. Il Napoli invece è più, credo, una questione di testa, mister. Cioè, oggi probabilmente cominciano a sentire la pressione dell'avvicinarsi del momento della verità. Ma secondo me il Napoli è una squadra che per ora, non avendo la stessa esperienza che ha la Juventus, come squadra, come anche team sotto tutti i profili, no? E quindi certe situazioni le gestisce in modo diverso e deve imparare a gestirle. Il problema della Juventus, secondo me, è nel fatto che ha fatto una grande rincorsa e qualcosa pagherà, e forse ha già pagato oggi, però riesce sempre a vincere col colpo di classe. Beh, anche col Genoa non brillante, mister. Sì. E poi il problema più grosso verrà non tanto, secondo me, contro diretto, ma poi quando la Juventus comincerà a avere le tre competizioni. Sì, quel doppio incrocio, soprattutto con la sfida con il Bayern di Monaco, che tra l'altro cade in mezzo anche a partite non banali di campionato. Dicevamo invece del Milan, 1-1 con l'Udinese, oggi Mihajlovic aveva in mano il bonus per tornare davvero in corsa nella zona Champions. ci dobbiamo sorprendere del fatto che non sia stato capace di coglierlo? Io non so dare una risposta a questa domanda, perché i segnali si erano visti. Ma sai, anche lì c'è grande pressione, e quindi prendi gol in quel modo, recuperare non è facile. Però devo dire che giocare per le coppe, Milan secondo me ci sarà, perché visto anche le altre squadre non è che mi sembra che stiano facendo benissimo. È un campionato un po' particolare sotto questo aspetto. Ci sono queste due squadre che ormai giocheranno per lo scudetto, quelle appena sotto giocheranno per le coppe, e poi ci sarà un altro campionato dai 28-30 punti in giù. Sì, stanno giocando un po' tutti per la Roma. Sì. Per farla rientrare, bisogna vedere se la Roma gioca per se stessa, perché fino adesso io non ho visto grandissimi segnali, se posso dire la verità. Ma qualcosina sì, in giusto, più, perché giusto, cambi l'allenatore, qualcosa dà in più anche con l'aspetto tattico. Adesso poi Luciano ha più esperienza e quindi sa come vincere e sa come si controllano le cose, però non è semplice, perché se tu arrivi alla 24esima partita e sei in una situazione di questo tipo, vuol dire che le qualità sono quelle. Sì, che ci sono dei limiti. Mi chiedo oggi che cosa sia mancato al Milan, cioè c'era tutto oggi per far bene, c'era l'avversario giusto, non irresistibile come l'Udinese di questa stagione, c'era il risultato della Fiorentina di ieri sera, c'era il risultato dell'Inter alle 12:30, poi magari capiamo anche che cosa sta succedendo all'Inter. C'è un amico che ha scritto chiedendo cosa succede alla difesa dell'Inter, 9 gol presi in 4 gare oggi. Io non so quante volte ti è capitato, mister, di vedere prendere una squadra 3 gol di testa così. Poche. Sì, ma cosa succede a una difesa che fino a due settimane fa era la migliore del campionato? Ma secondo me su queste fanno poco allenamento su queste situazioni. Anzi, secondo me non sanno per niente. Questo è un problema poi di molte squadre. Adesso non entriamo nel discorso personale, in cui io sto vedendo dei gol che non si possono prendere in questo modo. Parlo di tutte le squadre, di una situazione, squadre sempre in linea, i difensori, palla scoperta, vengono scavalcati, non ti dico gli uomini in area da soli che colpiscono la palla di testa, non marcati. Forse è meglio così, perché se la cultura italiana cambiasse è bello vedere il 3-3, senza poi fare polemiche. Sì, no, ma è stata una partita divertente. Per noi che siamo italiani, certe robe difensive ti fanno venire un po' la pelle d'oca, so, ma non solo a te che fai l'allenatore. Sì, no, ma se poi cambi cultura, come se noi prendessimo la cultura anglosassone, probabilmente queste sarebbero partite in cui ti diverti, tu esci dal campo, ti sei divertito paziente. Come direbbe Mancini, fossimo in Inghilterra, tanto lo dice qualunque cosa, fossimo in Inghilterra. No, io credo anche che un po' dei nervi scoperti di Mancini si siano trasmessi alla squadra, oltre a un evidente calo fisico. Sicuramente l'allenatore determina tanto in situazioni di difficoltà. Lo si vede che questa situazione non gli va bene, perché si vede anche dalla panchina, si vede anche come si comporta, è molto nervoso perché non riesce a risolvere la situazione, perché ha difficoltà a farlo. Probabilmente non è la squadra che voleva lui, non lo so. È sicuramente una situazione in cui si vede che ci sono delle defezioni e lui non riesce a porre rimedio. Sì, anzi si è incasinata la situazione, invece di risolversi. Per la qualità dei giocatori, probabilmente. Certo, oggi ha giocato Balotelli, secondo tempo. Un amico scrive: ha bisogno solo di giocare per tornare ad altissimo livello, o è diventato un giocatore normale? Oggi male anche sulle punizioni. È malissimo sulle punizioni. Adesso, allora, Balotelli non ha più scuse. Quindi è solo, sì, ma è un po' che non ne ha, No, va al di là di... va bene. Però in questo momento veramente non ne ha proprio più. Adesso dipende solo da lui, quindi... quello che fa non bene sicuramente fino ad ora è responsabilità esclusivamente sua, e se la deve prendere in questo momento. Sì, se la deve prendere, va bene che è stato fermo tanto, va bene che ci vuole un po' per trovare il ritmo partita, però mi sembra anche che Mihajlovic gli stia dando le sue possibilità. Scusa se interrompo, però se voi andate a vedere statisticamente è così, io ho fatto anche il calciatore, quando tu sei infortunato la prima partita la fai benissimo. Sì, poi le altre magari le sbagli, ma una la fai benissimo. Invece qui è ancora, manca ancora la prima. anche quella che ha giocato praticamente tutta in Coppa Italia non è stata un granché contro l'Alessandria. Grazie a Gigi Cagni. Grazie mister, a presto. Serata. Grazie a Gigi Cagni. 800 24 00 24, convocazioni aperte, vogliamo sapere chi secondo voi arriva meno peggio allo scontro di sabato sera tra Juventus e Napoli. Ci fermiamo, torniamo subito. Poi ragazzi, anche un po' di polemiche sugli arbitri, Fatevi due risate, li vedo tutti seri. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Ma non dobbiamo abbatterci adesso per questa cosa qua, perché comunque se continuiamo a giocare così, se continuiamo a creare così tanto, sicuramente risaliremo in classifica. Non Mihajlovic, ciao Pier. Ciao Pierluigi Pardo, bene, bene, in questa domenica che si è raddrizzata da metà del secondo tempo in poi, perché hai visto che i ragazzi di Lotito stavano facendo un bello scherzo a Napoli e Juventus. Restiamo ancora su Mihajlovic, microfono di Sky. Un giocatore fondamentale, l'ha dimostrato sul campo con i gol, con gli assist. Senza di lui si perde un po' di qualità. Abbiamo deciso di mettere Kučka là sulla fascia perché qualche volta l'ho fatto a Genova, anche per rimanere compatti, anche perché Mario e Prince non hanno 90 minuti nelle gambe. Il secondo tempo era, anche se volevamo cambiare tutto, abbiamo fatto due cambi forzati con Kuce e con Baye perché avevano problemi fisici, e nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ma purtroppo non siamo riusciti a fare un gol in più, anche se abbiamo avuto diverse situazioni, cioè, ci dispiace. C'è un filo che unisce Mancini e Mihajlovic, non so, e così apriamo anche il discorso Inter, aspettando Sarri, il suo dopo partita dopo Napoli-Carpi. C'è un filo, io non so se siete d'accordo, Pier, Carlo, che unisce Mancini e Mihajlovic, tutti e due contenti per come la squadra ha giocato, per come ha cercato la vittoria, andando avanti così di sicuro risaliremo la classifica. La verità è che Inter e Milan continuano ad andare col passo del gambero. L'Inter oggi poteva tornare terza ed è rimasta dietro la Fiorentina. Se questa sera la Roma vince, sale a un punto dall'Inter. Oppure, se vuoi, il volo del tacchino, sbattono le ali ma non si alzano da terra. Però se vuoi cambiare animale, sì, a me sembra che se la Roma dà una sestata alla situazione, che in qualche modo si è già vista contro il Sassuolo, per me può arrivare terza abbastanza tranquillamente. Questa è la mia idea, e penso che qualcuno si stia anche già un po' mordendo le mani, perché forse la sostituzione poteva essere fatta prima, oppure non fare la sostituzione ma dare più forza a Garcia. Invece c'è stata quella situazione di limbo che è durata tanto e che secondo me non ha fatto bene alla Roma. Io l'Inter l'ho commentata, ha ragione Mancini sul fatto che ha prodotto una marea di occasioni, però è pure sì, vero, ma non puoi prendere quei tre gol, Pier. E poi è pure vero, con tutto rispetto, che Verona, che sicuramente è una squadra in crescita, però è comunque bisogna anche considerare l'avversario. A me oggi l'Inter ha deluso, sinceramente. Ha fatto una figuraccia, Pier, ha fatto una figuraccia. Una squadra che deve avere il sangue agli occhi, che dal sabato ha ereditato il pareggio della Fiorentina a Bologna e forse non ci sperava nemmeno più, che sa che ha davanti un ciclo di partite difficili, perché quello che arriva è difficile per l'Inter, è il pezzo più difficile del campionato. Io credo non possa buttarsi via come ha fatto dall'1-0 in poi. C'è stata una reazione alla fine, perché è vero che ha avuto l'occasione di vincere, ma ha avuto anche l'occasione di perdere, insomma, il pallonetto di Romulo e soprattutto sul 3-2 la palla gol fallita da Juanito Gomez sono due occasioni vere molto importanti. Aveva cominciato bene la partita, sicuramente quella palla gol di Palacio, una buona disposizione da parte di Icardi, però poi sinceramente ma secondo te cos'è successo a quella difesa, oppure a quel centrocampo che non riesce più a proteggere? Miranda non è un dettaglio. No, certo. Il centrocampo, sì, però Pier, come diceva prima Gigi Cagni, sulle occasioni da palla ferma si può marcare anche senza Miranda. No, ma certo. Cioè, non c'è una regola che ti impedisce di... No, senza Miranda non puoi marcare, si sa, è il regolamento che lo impone. No, a parte le battute, assolutamente, sono errori di concentrazione, sono errori anche di posizionamento, sono errori di allenamento. Insomma, prima sentivo Ventura si prende la responsabilità, no? non è che un allenatore, l'allenatore è la sintesi, l'ho detto mille volte, la sintesi tecnica del risultato della squadra, quindi se la squadra sta meglio di quello che è il suo potenziale è merito dell'allenatore, se sbaglia è colpa dell'allenatore. Ma non è il momento di cominciare a dire che io continuo col filo, perché secondo me anche Mihajlovic è sotto il rendimento del Milan potenziale, e Mancini non ne parliamo, cioè non è arrivato il momento che si provi anche a cominciare a tirare una riga e a capire di chi sono davvero le responsabilità. Sicuramente, perché è arrivato il momento di dire che insomma non è che se Icardi, non è tanto il caso di oggi, si mangia dei gol o comunque se vengono commessi degli errori è solo colpa dei giocatori, e quando invece le cose vanno bene è merito dell'allenatore. Su questo non c'è alcun dubbio. È ovvio che Mancini, nel momento nel quale recrimina perché quel gol lo facevo pure io, poi alla fine quel gol non lo fanno è anche perché evidentemente non si allenano come dovrebbero. Poi è ovvio che ci sono le responsabilità personali dei calciatori, sì, però, ma quello che è sorprendente sono passati dall'essere la miglior difesa del campionato ad essere una difesa che piglia 3 gol da chiunque, gol subiti nelle ultime 6 partite, è questo sorprendente, non tanto che i Cardi non segno, che facciamo fatica a segnare oggi, va bene, ne hanno fatti 3, però la cosa più sorprendente dell'Inter è che si è costruita un primato in classifica su una solidità difensiva spaventosa. Adesso prendono 3 gol ogni volta che si allacciano le scarpe. Guarda, la partita di oggi è veramente incredibile, perché è veramente anticiclica. Io chiaramente l'avevo preparata. Erano le due squadre, sono successe una quantità di cose strane rispetto alla tendenza di tutta la stagione, è clamorosa. Erano le due squadre assieme all'Udinese che non avevano mai segnato nel primo quarto d'ora e oggi dopo un quarto d'ora avevano segnato tutte e due. Erano le squadre che avevano meno volte fatto delle partite segnando più di un gol, appena 3, e oggi ne hanno fatte 2-3. Insomma, tutta una serie di numeri assolutamente in controtendenza. La tendenza invece confermata è quella del Verona, che a questo punto ha fatto 14 gol su 19 la palla inattiva. E il Verona ha avuto mille problemi nella stagione, ma lo sapevano pure i bambini, che se c'è un tipo di situazione dove bisognava stare molto attenti era quella delle palle inattive, perché è praticamente l'unico modo con il quale il Verona segna, e segna tanto all'inizio della stagione. È probabilmente la squadra più forte d'Italia. Anche Toni Pazzini, parte che non ha solo loro, l'abbiamo visto oggi. Vi faccio sentire, intanto saluto Aldo Serena, ciao Aldo. Ciao a tutti. Ciao Aldo. Vi faccio sentire Mancini a proposito dei gol presi su palla inattiva, se l'hanno fatto arrabbiare o è soltanto deluso. Sentiamo Mancini. Più deluso o arrabbiato? No, sono deluso di aver subito 3 gol così. È iniziato benissimo e ci siamo trovati sotto 2-1 su 2 calci d'angolo, quindi è chiaro che poi la partita si fa più difficile. Poi abbiamo reagito benissimo, abbiamo avuto sempre l'occasione per far gol. Poi è venuto fuori il 3-1 da una palla che va in attacco noi. Sicuramente abbiamo fatto totale disattenzione sui calci piazzati, questo perché hanno fatto 3 calci piazzati alla fine. E poi oggi è andato avanti con la storia ancora nervoso, il tasto degli arbitri, così poi parliamo anche di questo approccio che ha Mancini, che io credo stia danneggiando l'Inter anche in campo. Cosa pensa Mancini? Non commenta? Sta pensando. Non ho niente da dire. Non è silenzio assenso, come si dice di solito. No, non ho niente da dire, veramente. Ma domani chiarisce qualcosa magari con gli arbitri per distendere un po' la situazione, si presenta al raduno? Parliamo della partita, ma se dobbiamo parlare, per cortesia. Questo Mancini oggi. Aldo Serena, io ti chiedo un minuto di pazienza perché è arrivato Sarri ai microfoni di Mediaset, quindi lo sentiamo così poi parliamo di tutto. Sarri. Va bene. Devo giocare a calcio con serenità e quindi sono contento, mi aspettavo questa partita, mi aspettavo questa difficoltà, a meno che non si fosse riuscito a sbloccare il risultato velocemente. Prima di entrare nel dettaglio dell'episodio, le chiedo se a questo punto, visto che il prossimo impegno è con la Juve, l'idea che si è fatto insomma di questa sfida al vertice, che cosa teme di questa Juventus? Che è una squadra forte, che negli ultimi anni è sempre stata allenata da allenatori forti, che ha un gruppo storico solidissimo, che sono abituatissimi a giocare questo tipo di partite, hanno una società forte, quindi c'è tutto da temere della Juventus. Noi siamo contentissimi di andare a Torino a giocare una partita così importante, per noi è già motivo d'orgoglio essere la squadra in questo momento vicino alla Juventus. In ogni caso non cambierà la sua filosofia a Torino per vincere? Noi andiamo per giocare come sappiamo e non è che possiamo andare a giocare altri tipi di partita, un altro tipo di partita, andiamo a giocare come sappiamo sapendo ci saranno grandi difficoltà e sperando di crearle. A Torino per sì, giocare, allora, come sappiamo, dice Sarri, per vincere magari, però se anche uscisse un pareggio, io credo che l'ottimo Sarri non se ne avrebbe male. Aldo Serena, cosa succede all'Inter? Beh, saperlo sarebbe già un buon saperlo. Punto. Io penso che anche Mancini non riesca a comprendere bene, perché dopo la prima rete l'Inter aveva la partita in pugno, stava lavorando benissimo sul settore di destra, Palacio da quella parte stava facendo il bello e il cattivo tempo con Albertazzi, e poi invece sui calci piazzati delle attenzioni incredibili. Quest'anno questo atteggiamento della difesa a zona sui calci d'angolo, sui calci piazzati lateralmente, aveva dato anche buoni frutti, perché non ha subito molto l'Inter. Però ecco, nel derby il gol di Alex è sullo sviluppo, sul palla in movimento da un calcio d'angolo, e lì le marcature si sono perse. Quest'oggi tre volte non sono riusciti. Io credo che quando si affrontano squadre che hanno una prestanza fisica e giocatori molto alti e anche con volume grosso, penso che lì vada fatta la zona mista, alcuni vadano marcati strettamente a uomo. Sì, cosa che è successo credo nel finale di partita, quando evidentemente Mancini non ne poteva più di vedere gol, quanti doveva prenderne. Ma qual è la prospettiva di questa Inter? Cioè, questa sera l'Inter rischia di trovarsi la Roma a un punto, tra l'altro tra credo tre o quattro giornate l'Inter andrà proprio all'Olimpico contro la Roma. Sì, devo dire che oggi anche hanno deluso i giocatori di centrocampo in maniera forte, perché Melo sotto il profilo della tensione ha dimostrato proprio di essere labile, di non essere un giocatore sul quale si può fare affidamento, perché dopo l'ammonizione ha rischiato molte volte di essere ammonito, era nervoso, a parte che anche, devo dire la verità, non è mai entrato bene in partita. Brozovic ha sbagliato moltissimi palloni, ecco. Il meno peggio è stato con Dobbiá, che nella ripresa anche ha fatto buone cose, nella prima parte forse un po' meno, ma poi è cresciuto. Ecco, il centrocampo dell'Inter è veramente un punto di domanda, perché ha vari giocatori, però nella fase di impostazione sono tutti abbastanza carenti. Sì, oggi si è visto un abbozzo di tentativo di continuità con le tre punte, più o meno la stessa formazione vista con il Chievo. Pier, ovviamente c'erano dei cambi, Miranda era squalificato, segno che credo Mancini per primo stia cercando di dare dei punti fermi da cui partire. Sì, oggi c'erano 9-11 esimi confermati, per la seconda volta consecutiva c'era un attacco tridente senza giocatori slavi. Io penso che francamente la squadra continua a essere molto deludente dal punto di vista della produzione in mezzo al campo. Tutto quello che ha detto Aldo lo sottoscrivo, su Felipe Mero che ha rischiato di lasciare in 10 la squadra, ma anche Brozovic ha perso una marea di palloni. È una squadra, secondo me, che dal punto di vista della costruzione del gioco è veramente poca roba. Poi ha molto talento davanti, molto talento, perché Icardi rimane, secondo me, uno dei migliori attaccanti del campionato, anche se certamente ha avuto annate migliori. Perché comunque Palacio oggi, per dirti, ha suonato la carica, è stato lui alla fine, secondo me, che ha trascinato la squadra e l'ha portata avanti, perché comunque questa è una squadra che ha tanti giocatori, di qualità. Arrivate a vedere che oggi non ha fatto benissimo, Ljajić, Jovetić, Perisic, cioè, è una squadra che come somma di talento offensivo ne ha veramente tanto. E dietro aveva delle certezze fino a qualche partita fa, e adesso improvvisamente le ha perse tutte. Sì, le ha perse tutte. Il quadro Non è proprio il massimo. Secondo me c'è un serio rischio di Europa League, ma serio, serissimo. Insomma, se le cose non cambiano, perché poi alla fine una delle qualità migliori di questa squadra, con la prima che ha trovato Mancini, che era l'idea di una squadra comunque robusta, comunque fisica, tatticamente molto attenta, mi sembra che si stia perdendo di partita in partita. Sì, e credo che parte di responsabilità ce l'abbia anche Mancini. C'è un amico che dice: quale sicurezza, erano solo i miracoli di Handanovic a mascherare i limiti di quella difesa. Handanovic, bene, abbiamo parlato per un intero girone, sì. Insomma, sapete come la pensa. Handanovic è stato decisivo tante volte, e tante volte ci siamo detti come mai, cioè io tante volte, a costo anche di sembrare quasi offensivo, di avere qualcosa contro l'Inter, cosa che assolutamente non è, mi chiedevo... c'era qualcosa che non mi tornava perché tante volte vedevo una squadra che giocava così e che poi in un modo o nell'altro la portava a casa. Però quando vinci 10 volte 1-0 in un campionato, e questo a quello che è successo all'Inter, beh, insomma, 10 volte 1-0 non può essere un caso, perché una cosa che succede 10 volte. Sì, cammini sempre sul filo, poi appena cambia il vento, appena gira il vento, poi ti butta male. Noi abbiamo il traffico, vi tengo tutti e due ancora, perché poi comunque io voglio approfondire anche il tema con Aldo Serena del Milan, che secondo me è la notizia fin qui della domenica pomeriggio. Traffico. Questa è una strozzata, dai. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Tutti convocati. Fratelli e sorelle, buonasera. Ho seguito la partita di Verona su mega schermo, sì, di 70 pollici e un dito medio dell'ultima generazione nell'attico di Tarcisio, sì, Bertone. Che partita ha seguito in Inter? Verona-Inter. Sì, sì. Scusate, ma un calo della vista o sì, l'internazionale ha preso 3 gol di calcio di angolo? No, non è vero, ne ha presi solo 2. Il terzo era una punizione. Ah, ma allora aveva ragione l'urologo dell'Inter. No. Che ha detto che hanno dei problemi sulle pale inattive. No. Poi mi ha sembrato un invasore de campo senza capelli ha cominciato a falciare erba a giocatori. No, tutto quello che trovava. Non era un invasore, era Felipe Melo. Ma poi l'ha tolto. Ah, allora sì, di lui si è impossessato il diavolo. Sì. Ma perché bisogna fare un esorcismo. Sì. Esci del corpo. Ma no. Esci del corpo di Felipe Melo e se non basta gli diamo un pugno. No, non bisogna fare esorcismo. Bisogna fare qualcos'altro. Che voi di solito, Capuano, mi scusi, sì, ma di solito il diavolo si impossessa del direttore de gara. Sì. Non dicono sempre arbitro cornuto. No, non è e spunta così la coda. No, non è così. Siamo nell'inferno. Non è così. 800-24-0024. Sarebbe, ad esempio, come dice l'amico, l'Inter continua a essere un cantiere aperto. Vabbè, è un po' tardi per i cantieri, ragazzi. È un po' tardi per i cantieri. Aldo Serena sul Milan, invece, io trovo particolarmente deludente a livello anche di approccio che anche il Milan sbagli completamente l'approccio di una partita che dovrebbe giocare col sangue agli occhi. Che può dare un significato diverso alla stagione e invece esce un pareggino con l'Udinese. È vero, sembra proprio una costante quella della squadra di Mihajlovic, quando deve spiccare il volo proprio per qualche motivo non riesce a farlo. Sembrava appunto dopo la partita contro la Fiorentina in casa vinta a Empoli una tappa importante, lì ha pareggiato, poi ripresa con il derby Palermo ed ora che in casa con l'Udinese sembrava anche una partita abbastanza facile per certi versi, non è riuscita a dare una prestazione di livello. Poi anche nel secondo tempo, mettendo Balotelli, è tornato a un gioco più offensivo, quindi non è più rimasto ancorato sul 4-4-2 che gli ha dato nell'ultimo periodo delle buone soddisfazioni. È proprio, credo, un problema di personalità un po' questa del Milan ed anche un po' di qualità a metà campo. Sì, poi se manca Pier Bonaventura come oggi, evidentemente questa qualità viene meno ulteriormente. È talmente fragile che manca che basta un dettaglio. Bonaventura non è un dettaglio, basta che qualcosa non funzioni, che qualche giocatore manchi o non faccia la prestazione ideale, tutto si inceppa. Mi sembra fragilissimo, sì, almeno. Sì, Bonaventura, e se vogliamo, è fantastica, ma anche questo in qualche modo è una misura della dimensione del Milan in questo momento. Bonaventura appunto è forse il miglior giocatore del Milan, è il giocatore secondo me più importante dal punto di vista, siamo a Bacca, dal punto di vista proprio della Bacca, dal punto di vista realizzativo, Bonaventura dal punto di vista della creatività in mezzo al campo, quindi è chiaro che non è un'assenza banale, così come Miranda è un giocatore molto importante per il pacchetto difensivo dell'Inter. Sono squadre imperfette, l'espressione dei cantieri sono fortemente abusate soprattutto a febbraio, però dai, certamente oggi è un passo falso per il Milan molto pesante che ridimensiona il cammino e che ricorda insomma che la strada verso la Champions League è una strada veramente stretta. Aspetta che credo che Sarri stia parlando degli episodi arbitrali di oggi di Napoli-Carpi. Questa partita possa essere uno spartiacque, noi andremo là a peggiorare il nostro calcio, siamo contenti che la Juventus è partito dagli episodi ed è su e andremo Napoli-Juve mostrando l'orgoglio di tutta la nostra gente. Alessandro, abbiamo fatto dei oggi, paragoni con oggi è successo di tutto a Napoli. Prego Pier, se vuoi finire il discorso. Quindi capito, sono squadre ancora imperfette. Io credo che complessivamente, come diciamo da parecchio tempo, San Nicola l'ho detto spesso, la situazione del Milan sia in miglioramento, si rasserena, però siccome la strada per il terzo posto sarà molto stretta, mi sembra difficile che il Milan possa conquistarlo. Insomma, deve fare da qui in avanti un finale di stagione perfetto. Il tempo c'è, ovviamente, il tempo c'è per tutti. Guarda, oggi il Verona ha sperato di vincere, ha sperato della vittoria. Se avesse vinto, secondo me tornava in corsa addirittura per la salvezza, anche se ovviamente è molto lunga e molto difficile, ma per il resto, insomma, poi la strada, il tempo per recuperare ce l'è, c'è tantissimo. Sì, anche perché nessuno corre, Pier. C'è un amico che ci chiede di parlare della Fiorentina. C'è un amico così, che ci parla della Fiorentina. La Fiorentina sta esplodendo. Se non si suicida la Roma è la squadra più pronta, secondo me, per prendere il terzo posto. Aspetta che saluto intanto Aldo Serena. Grazie Aldo. Ciao Aldo, buon grazie. Pomeriggio a tutti. Ciao, grazie. No, anche perché c'è la Fiorentina che sta implodendo. Scrive un amico Stefano, vi do una notizia, è terza in classifica. Parlatene, ne parliamo però. Una pazzia. Ne parliamo, per me non sta implodendo. Mi sembra che la situazione sia particolare a Firenze. No, ma non sta implodendo. Ieri ha fatto una partita discreta e secondo me condizionata da una sciocchezza che è quella di Mati Fernandez e da un'ingenuità che gli è costato il secondo giallo, altrimenti probabilmente poteva anche provare a portarla a casa. Certo, la sensazione che abbia regalato un po' il primo tempo e che ieri ci sia stata un'ansia da turnover per Paolo Sousa c'è, perché comunque... Sì, però quello che sta succedendo con i Della Valle è particolare. Ma sì, c'è troppo nervosismo intorno a quella squadra ed è ingiustificato. Mentre se sull'Inter... dell'Inter possiamo parlare. Beh, insomma, Pier... Non è nervosismo, no, però non è che il calo c'è perché c'è il nervosismo. La Fiorentina per me è sempre quella, cioè una realtà importantissima nel nostro campionato, che nella prima parte della stagione ha fatto delle cose veramente incredibili e che si sta, secondo me, diciamo in maniera naturale, quasi fisiologica, mettendo nella posizione di classifica che le compete, che secondo me è il quarto o quinto posto, che rimane una posizione molto importante, non sa niente di male. Poi è ovvio che Firenze, per la passione che ha, per l'entusiasmo che c'è, per la cultura calcistica che c'è, perché Firenze è veramente, dal punto di vista tecnico, tattico, non solo perché c'è Coverciano, uno dei posti dove si mastica di più calcio in Italia, è chiaro che vorrebbe, ambirebbe a una posizione in Champions League, lo capisco perfettamente, però credo che se parliamo di fatturati, cosa molto di moda in questo momento, e di qualità tecnica delle squadre, la Fiorentina sta facendo il massimo di quello che può fare. Anche un po' scomodo, appunto, perché poi in Inghilterra c'è Leicester che col suo fatturatino sta dominando la Premier. Ma ne parliamo dopo il GR del 18. C'è un amico non vedente che ci chiede di ripetere la classifica. Lo facciamo: Napoli 56, Juventus 54, Fiorentina 46, Inter 45, Roma 41, Milan 40 e poi insomma giù tutte le altre, comprese Atalanta ed Empoli, che tra poco meno di 5 minuti cominceranno la loro partita, e con la Roma e la Sampdoria che hanno una partita in meno perché giocheranno questa sera alle 20:45. Ma io devo 45. Dire, faccio i complimenti ai giocatori, sì, secondiamo Sinisa. Così quali complimenti? È tutto, stappiamo un ottimo champagne. No, ma oggi non è andata benissimo, ma tu prendi per il culo e fai simpatico per Milan forza. Ha pareggiato, quindi non è andata benissimo. Oggi non era neanche acqua frizzante. Ma così dice Pardo, ma su gol di Armero la difesa è mancata di concentrazione, è sì. Tutto. Io non ho la bacchetta magica di Jerry Potter come Genta. Sì, per show è come una bottiglia stappata, dentro non c'è champagne, un buon prosecco, ma una semplice gassosa. Appunto, oggi c'è gassosa. Non è male, c'è una sede. No, ci dobbiamo fermare. 800-24-0024, Pierluigi Pardo resta con noi, torniamo dopo il GR delle 18. Prima però il mucchio selvaggio. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Tutti convocati. Che cosa teme di questa Juventus? Che è una squadra forte, che negli ultimi anni è sempre stata allenata da allenatori forti, che ha un gruppo storico solidissimo, che sono abituatissimi a giocare questo tipo di partite, hanno una società forte, quindi c'è tutto da temere della Juventus. Noi siamo contentissimi di andare a Torino a giocare una partita così importante, per noi è già motivo d'orgoglio essere la squadra in questo momento vicino alla Juventus. Ora abbiamo una settimana per preparare quest'altra partita con il Napoli e poi ne avremo altre 13 davanti, quindi il campionato è lungo, bisogna rimanere bene sereni e pensare di partita in partita cercando di vincere il più possibile. Come fermerà Gonzalo Higuaín? Come fermerà? Noi giocheremo una partita, sarà una bella partita, lo scontro diretto, ma non deciderà assolutamente il campionato, ci faremo trovare pronti e noi abbiamo giocatori importanti di cui Napoli si dovrà preoccupare, però credo che sarà una partita completamente diversa da quella di oggi. Ma al massimo un cambio Higuaín fatturato lo farebbe con Sarri? Cioè lui le dà Higuaín e lei gli passa il fatturato della Juve? Ma non, io a Sarri posso fare solamente i complimenti, perché sta facendo un campionato importante. Il Napoli, che non era in testa al campionato in questo modo era tantissimi anni, uno come lui c'è da essere solamente contento a lottare il campionato contro la Juventus. No, beh, meravigliosa la domanda sullo scambio Higuaín fatturato. Fatturato della Juve mi sembra un po' tantino, io, anche io per un molto. De Laurentiis farebbe il cambio domani mattina. No, stasera, adesso, tra 5 minuti o 5 secondi. Pier, fatturato della Juve te... è tanta roba per un giocatore. È evidente. Farebbe il cambio adesso, ieri. Ci sono anche altre piccole cose che ho notato, per esempio Sarri che dice essere la squadra più vicina alla Juve, no? In realtà Napoli avanti in questo momento, quindi c'è anche questo quasi un eccesso di modestia. No, ma diciamo la verità, perché l'aspettativa di tutti è che comunque la Juventus continui ad avere quel ruolo leader nel campionato e ogni tanto si perde di vista che in realtà in questo momento appesa un filo è più la Juventus del Napoli, anche il filo dei 90 minuti di sabato sera. Sì, beh certo, perché l'unico risultato diciamo che non chiederebbe, perché di chiuso comunque non ci sarà nulla, comunque andrà a finire. Però l'unica cosa che può spaccare è la vittoria del Napoli. Che appunto sarebbe a più 5, sarebbe un vantaggio importante. Quindi da questo punto di vista sicuramente questo è un vantaggio. Detto questo, si gioca in casa della Juve, il campionato è lunghissimo, la famosa abitudine della Juve è un fatto, è un dato. E vedremo, insomma, però è bellissimo. Io sono molto curioso, non lo so, non ho proprio sensazioni, non ho. Faccio fatica a dirti. La sensazione è che la Juve sia un po' stanca, sì, lo diceva anche all'inizio, sì, Vittorio Reggia. Le ultime due partite non sono state brillantissime, però anche il Napoli oggi non ha brillato. Francamente, e poi sai, quella è una partita talmente diversa, talmente importante. Ci sarà una settimana per poterla preparare, mentre qui c'era il turno intrasettimanale. Insomma, sinceramente, secondo me. Non ci sono grandi indizi, non, faccio proprio fatica, non vedo, non leggo dei segni negli astri, certamente, se non il fatto che mi sembra una cosa diversa rispetto al passato, perché nel passato il Napoli si è avvicinato varie volte, la Juve è andata a giocare delle partite al Juventus Stadium, si tira poi sempre malissimo, e insomma la distanza tra le due squadre è stata significativa, anche quando si è avvicinata la Roma, poi alla fine comunque la Juve era più squadra, al di là della famosa partita di Rocchi eccetera, ma in generale in assoluto tutte le volte che Roma si è avvicinata le antagoniste si sono avvicinate comunque erano inferiori alla Juve. Sì, ma sono state spazzate via soprattutto allo stadium da vittorie che erano più di vittorie, erano proprio un'affermazione di superiorità. Quest'anno vediamo sabato sera cosa esce. Intanto arrivano notizie non buone per la Juve su Chiellini, perché Allegri tra le righe ha fatto capire di conservare poche speranze di poterlo recuperare per sabato sera per Juventus-Napoli. Sì, già aveva problemi agli adduttori. Ha detto abbiamo Rugani o potrebbe giocare Lichtsteiner centrale. 800-24-00-24, tra qualche minuto vi facciamo sentire una cosa che è appena successa, particolare di Mihajlovic, deve essere l'aria di San Siro, però dovete pazientare ancora qualche minuto. Simone da Bologna, Simone. Buonasera. Eccoci. Eccoci qua, volevo chiedervi una cosa, un parere, oppure solamente una vostra impressione su qualcosa che ho pensato ieri quando ho visto la partita di Leicester contro il Manchester City. Sì. Non so se ne avete già parlato oggi. No, ne parliamo tra qualche minuto. Ecco, poi c'è una cosa, io l'ho vista registrata quella partita, non potevo vederla, sapevo tra l'altro anche già il risultato per via delle applicazioni che ti aggiornano sempre in tempo reale. E quindi di solito vado avanti col decoder, arrivo magari 2-3 minuti prima del gol e guardo proprio le 5-6 azioni prima del gol per gustarmelo quasi un po' come se fosse in diretta. Ieri non ce la facevo perché era talmente bella, secondo me, quel modo di giocare, veloce, occasioni, pubblico che urlava sotto l'acqua. Era una cosa che mi sembrava totalmente fuori dal mondo, come un altro sport rispetto a quello che sono abituato a vedere in Italia. E anche mi auguro che Juventus-Napoli sia uno spettacolo sotto questo punto di vista, prima e seconda italiana come un parallelo, però veramente io sono rimasto, mi chiedevo perché ad esempio, velocemente, una cosa, ero in Grecia la settimana scorsa per lavoro, quando tu gli nomini Ranieri, loro a momenti ti picchiano perché Ranieri non ha fatto loro, benissimo, non si è qualificato con gli europei, ha perso con le Faroe, cioè, quindi, ma era quello che scriveva Redknapp a luglio in un tweet, dopo quello che ha fatto con la Grecia, mai mi sarei immaginato di vedere Ranieri in Premier League di nuovo, figurarsi vederlo primo in classifica. Ma insomma, ci sta riempiendo d'orgoglio, ma adesso ne parliamo. Grazie Simone, c'è Marco dalla provincia di Caserta, però prima ci fermiamo, c'è il traffico, poi ripartiamo da Marco. Tutti convocati. Tutti convocati. Tanto 12 minuti 0-0 tra Atalanta ed Empoli. Piove forte a Bergamo, da segnalare un'entrata di Buchel in ritardo, ammonito, colpa anche della pioggia, del campo un po' scivoloso. Marco dalla provincia di Caserta, dai Marco. Ciao ragazzi. Eccoci. Ciao, volevo parlare di Mancini e dell'Inter, però volevo fare una premessa, se c'è Pierluigi Pardo. Non sì, so c'è, se... c'è. Ecco. E volevo dirgli un rimprovero. Così competente, così bravo, come mai fa una trasmissione così scadente come Tiki-Taka? Nel senso, troppo fivola e con personaggi tipo Mughini, ormai andati col tempo. Delicatissimo. Mi piace perché è una... Ecco, ma mi pare di capire che non ti piaccia, no Marco? Ascolto volentieri radio, ecco, perché è molto competente, simpatico. Ma mi dia qualche suggerimento, chi vorrebbe vedere? Facciamo gli inviti per domani, dai Marco. Faccia la scaletta. A parte rinnovare un po' il parterre e poi buttarla un po' meno, voglio dire, sul simpatico. Ma mi dica qualche nome, non lo so, è da trovarli, come li trovò Piccinini all'epoca, con controcampo, devi essere anche tu bravo a trovarne di così simpatici. Piccinini c'aveva, non è che non facesse il programma frivolo, vabbè, comunque insomma dai. No, io quello, no, mia opinione, no, ma io l'accetto, perché ti rispetto come giornalista. Ma io pure ti voglio bene, l'accetto, però ti dico che Pochini secondo me è un personaggio straordinario. È un po' troppo vecchio ormai, secondo me. È vecchio. Sì. Poi secondo me la trasmissione in generale è un po' troppo, ecco, un po' frivola. Ma diciamo che io non mi sento propriamente vecchio. E dai! Dai, Marco, dici qualcosa su Mancini. A parte questa premessa, Mancini, volevo dire che secondo me è un allenatore da sempre troppo sopravvalutato, nel senso che noi guardiamo l'Inter da parecchie domeniche ormai, è un allenatore che secondo me ancora sta sperimentando senza aver dato un gioco alla squadra, senza cambia continuamente sia modulo che uomini. Non ha voluto un regista per impostare la squadra in un determinato modo e ora ci sono tutti i limiti, voglio dire, ecco, stanno venendo fuori. Non so, e questo è un allenatore più pagato della Serie A, giusto? Partiva anche con un gap notevole da colmare, poi per carità è un'ora e mezza che lo stiamo criticando, però insomma. Io parlo a livello di gioco, secondo me un allenatore così pagato, così con un'esperienza alle spalle, secondo me i risultati che sta ottenendo sono abbastanza scarsi dal punto di vista del gioco, non dal punto di vista della classifica, che è ottima, però dal punto di vista del gioco c'è una squadra inconcludente. Ci sono evidenti problemi. Grazie Marco. Intanto stanno arrivando messaggi pro Mughini. Mi sembra un personaggio da Suburra, grottesco. Ha detto la sua, voleva bene a Perugi Pardo, si conoscono, si vogliono bene. No, io, allora, al volo sul concetto del privolo però sono, se vuoi, anche in qualche modo è una TV generalista, quindi una TV che vive anche di ascolti e quindi di un programma che deve essere necessariamente alto basso, no? Che dentro deve avere gli intellettuali, e questa è una delle novità di Digitaka, ma anche momenti, diciamo, più pop, perché altrimenti se fai un programma che è soltanto tecnico, come un programma che puoi fare su Sky o su Premium, chiaramente becchi un pubblico di appassionati, un pubblico di nicchia, e pensare di rivolgersi alla nicchia alle 23, poi sai, ci sono pure, vedo da altre parti, uno può fare anche il 2%, il 3% e può continuare, noi se facciamo il 3% ci chiudono domani mattina, quindi è stato anche un po' questa l'esigenza, no? Capisco perfettamente l'ascoltatore. A che stagione sei arrivato di Tiki-Taka? Alla terza. No, ma tra l'altro, voglio dire, Mughini è un personaggio che polarizza, no? Nel senso che è molto amato, poi chiaramente quelli che c'erano 100 napoletano, insomma, probabilmente c'è anche un po' di rivalità. Mughini piace molto ad alcuni e magari altri li fa arrabbiare. Questo è il senso, Pierluigi. Io quando guardo la televisione voglio anche divertirmi un po', non è che voglio stare sempre lì. Diciamo la leggerezza, il tono leggero è... Aspetta che vi presento un altro, vi presento un altro che è d'accordo su come vengono strutturate le trasmissioni e i palinsesti televisivi. È fresca, questo è fresca. Allora, prima di rispondere alla sua domanda, è una mancanza di rispetto, perciò volete chiamare un altro giocatore del Napoli, della Juve, parliamo, io sto qua da 10 minuti a aspettare come uno stupido. Sinisa, non è così. È così perché io sto qua da 10 minuti e vengono sempre tutti davanti. No, Sinisa, tu non sai come stanno anche le altre cose negli altri stadi. No, ma io lo c'è so una come fila stanno. Che tutti quanti devono rispettare. In questo caso hai dovuto aspettare te. No, non è che siamo allora, contenti. Secondo me, Sinisa, secondo noi non siamo contenti di farti aspettare. Quando c'è un allenatore comunque che sta 10 minuti e i giocatori devono aspettare. Sì, Sinisa, però così. Tu hai giocato in casa, tu sei allenatore, vai in trasferta, spesso utilizzato. Vado in trasferta spesso e aspetto anche in trasferta, anche se gioco in trasferta qualche volta, ma non è un problema quello. Spesso? Dico solo quando uno sta 10 minuti qua, sta là, allora mi vedete, tutto si registra. Molti gli allenatori che aspettano. C'è Sarri, per esempio, Sinisa, che sta aspettando da 10 minuti. Siamo pronti a parlare di... prima di Sarri, Sì, però anche lui aspetta da 10 minuti. Però io sono arrivato prima, se volete far parlare Sarri, parlate lui, non c'è problema, anche lui come te. Ma io più di lui. Va bene. Ok, prego. Qual è la domanda? Ci siamo chiari. È una nuova moda, Meraviglioso. Il tiro al conduttore. Beh, allora, è uno degli sport più praticati. Se Sinisa vuol venire domani a Tiki-Taka, io giuro che non lo faccio aspettare. No, anche perché sennò è notte fonda. Posso dire, il mio amico Marco Mazzocchi è stato bravo qua, secondo me. No, che poi non si può subire tutto, non possono subire tutto gli allenatori e non possiamo subire tutto noi giornalisti. No, perché è veramente così. Adesso ho seguito la situazione, ma mi viene da dare ragione a Marco, perché poi lì c'è un traffico che è tipo... la Colombo, che perché il romano sa bene che cos'è, oppure la tangenziale all'ora di punta, soprattutto quando ci sono 5-6 partite il pomeriggio, quindi insomma. E poi ci sta anche che, avendo già adesso, non so la situazione, ripeto, ma avendo giocato Napoli-Juve oggi pomeriggio, insomma, sono la prima e la seconda in classifica, ci sta pure che si uccida loro. Adesso avete fatto parlare Pardo, io sono 10 minuti prima di Pardo che sono qua. No, ma non è vero. Io sono arrivato prima di Pardo. No, Pardo sta collegato qua, sta là, si registra, 10 minuti, i giocatori e Pardo devono aspettare, c'è mancanza di rispetto, di gente, di Capuano. Io sono arrivato prima di te, Pardo. No, non è così. Pardo è qui dalle 17:30 con le due bottiglie di gassosa. Oggi che per ora tiene una cosa, ci sta aspettando da almeno 3 minuti. Sì. Nicola Ruggero, Nick. Cosa facciamo? Scusa per l'attesa, Nick. Gli manchiamo di rispetto ancora? Scusa, perdonaci, no? Nicola. Ciao, Nick. Buongiorno a tutti. Allora, sono Pierre. Dici ciao, la frase che aspettiamo tutti. In Inghilterra queste cose non succedono. Dai. Perché lì fanno solo un'intervista. Chiama Mancini. Dicelo. Adesso io sono esperto di cose inglesi, ma di quelle che avvengono sul campo non so francamente cosa avviene in televisione. Diciamo che solitamente in Inghilterra hanno un approccio più soft anche con i microfoni, quindi magari non succede in Inghilterra, però chi lo sa. Io credo che ci siano stati allenatori fumantini, per esempio ricordo lo sguardo di Van Gaal a un intervistatore che aveva fatto una domanda corretta e lui quasi lo incenerì. Mourinho, insomma, spesso se n'è andato alle conferenze stampa dicendo che non erano domande intelligenti, o anche i suoi nothing to say di un paio di mesetti fa. Credo che anche lì il livello non sia sempre oxfordiano, tanto per rimanere in Inghilterra. Sì, però loro signori devono capire che sono pagati anche per questo. Capito? Come negli Stati Uniti? Credo che conosco un po' meglio di me, un po' meglio anche di voi, sì. Più o meno. Ma sono pagati anche per questo, cioè per andare lì, aspettare 5-10 minuti a rispondere alle domande, cioè è così che funziona. Vabbè, però non facciamo polemiche, è stato meraviglioso. Diciamo le cose come stanno, però. Parliamo di Ranieri e di Fontana. Ieri chi ha seguito la telecronaca di Nicola Roggero sa benissimo che alla fine... Capello ha detto è un Fontana questa impresa di Ranieri. Cosa vuol dire è un Fontana? Fontana, perché tu sei lui un esperto di arte moderna. Fontana nel senso di sta tagliando la tela dell'ordine costituito della Premier League, sta veramente sfidando la logica. O no? Sì, sicuramente, ed è bello per questo. Io ho ricordato ieri in telecronaca che a inizio anno il Leicester era dato per la vittoria in campionato a 5.000-1, quindi se uno andava in un pub, prendeva una birra pagandola con 10 sterline, ne aveva 5 di resto, quelle 5 sterline, non sapendo cosa fare, le puntava da William Hill e oggi potrebbe anche vincere 25.000 sterline. Quindi è chiaro che è un sovvertimento totale della logica, è un capolavoro, ecco perché io ho sfrucugliato Capello, grande appassionato d'arte, su cosa potesse essere quel capolavoro. Io ho buttato lì un Van Gogh, lui giustamente ha spostato l'attenzione dai fiamminghi agli italiani, ha parlato prima di un De Chirico e poi un Fontana, alla fine abbiamo convenuto che fosse Fontana quello che sta facendo Ranieri con il Leicester, e abbiamo capito che Capello ha chiarissime le quotazioni delle opere d'arte, perché ha fatto un ragionamento perché ha parlato anche subito di soldi. Ha chiarito che i Fontana sono i più cari. Ecco. Sì. Anche un Picasso, se vogliamo. No. Picasso, che ma poi Fontana è una italiano, cosa Fontana è italiano, e quindi ce lo teniamo. Tra l'altro, ieri circolavano in maniera velenosa durante Manchester City Leicester i tweet di Lineker a luglio, Nick. Sì. Claudio Ranieri, really? Davvero? Cioè davvero Leicester ha preso Claudio Ranieri? Bella rivincita. Lineker è uno che ha regalato, oltre a pagine memorabili sui campi di calcio, anche frasi meravigliose, conosciamo tutti quella del calcio che è lo sport inventato dagli inglesi dove alla fine vincono i tedeschi. È un ottimo giornalista proprio della BBC, attenzione, non un analista, è proprio un giornalista e conduttore di trasmissioni. Lì però forse si è fatto tradire dal suo amore per Leicester e per il Leicester, lui è il ragazzo di Leicester, cresciuto nel Leicester, e diciamo pure l'ha fatta fuori dal vaso, perché non si capisce perché Ranieri dovesse essere il primo allenatore ad essere esonerato, visto anche il suo passato importante in tanti paesi e in Inghilterra con il Chelsea. Non ha più detto niente. È anche vero, ragazzi, che come si diceva prima a proposito dei greci, che lui è arrivato male. Adesso siamo qui tutti felici a celebrarlo e giustamente siamo fieri e orgogliosi di vedere un altro grande allenatore italiano che ottiene questo risultato. Però quando lui è arrivato all'inizio della stagione ci potevano stare mille preoccupazioni, no? È un po' come Gary Neville che un anno fa twittava come si fa a perdere 7-0 con il Barcellona e poi adesso Valencia sta vivendo qualcosa di molto simile. Cioè, poi i giudizi sono fatti anche per essere smentiti, devo dire che... Vabbè, però Pier, ogni grande allenatore di lungo corso ha avuto dei rovesci, non è che Capello in Russia abbia fatto sfracelli. Fatemi chiedere a Nicola Roggero, che poi dobbiamo lasciare. Scrive un amico velenosetto via SMS, però diciamo il senso della domanda lo capiamo benissimo. Quando prevedete voi giornalisti lo scoppio della bolla Leicester? Intanto ormai c'è poco per aspettare lo scoppio. perché voglio dire, mancano 13 partite, il Leicester ha 53 punti. Intanto cominciamo col dire che a tenersi proprio molto molto stretti, il Leicester l'anno prossimo fa l'Europa League, perché non vedo come posso uscire dalle prime 5 del campionato. E poi non si capisce perché dovrebbe scoprire la bolla Leicester. Intanto cominciamo col dire che il Leicester è una squadra che da qui alla fine dell'anno disputa appunto 13 partite, a differenza del City, del Tottenham e dell'Arsenal. Il City addirittura disputa persino la Coppa di Lega. Le altre squadre sono tutte impegnate o in Europa League, il Tottenham, e in FA Cup, o in Champions League e in FA Cup nel caso dell'Arsenal e del City. Da come corrono quelli dell'Leicester, non credo ci siano problemi dal punto di vista fisico. Anzi, complimenti al preparatore italiano, che è un ragazzo di Varese di 35 anni, a Zalin, che ha fatto un lavoro meraviglioso, splendido. E quindi non si vede perché l'Leicester dovrebbe scoppiare. Negli ultimi 4 giorni ha battuto 2-0 il Liverpool con quelle due perle, uno in particolare di Vardy, e poi è dato a vincere 3-1 con il Manchester City. Insomma, i segnali non sono quelli di una squadra non debito d'ossigeno. No, e tra l'altro io penso che la Champions sia sicura, sinceramente. Il calendario del City, che secondo la logica dovrebbe essere l'avversaria più forte, è un brutto calendario. L'ombra di Guardiola, secondo me, comincia a pesare in maniera significativa. Oggi l'Arsenal ha vinto, ecco, forse l'Arsenal, che adesso tra l'altro sfiderà il Leicester, potrebbe riaprire il discorso. Occhio anche al Tottenham, classica squadra Chapanò, che tutte le volte che si è avvicinata alle imprese in questi anni poi è se una mancata. Premier la può vincere il Leicester, la può vincere anche Tottenham, questo è il senso. Quelle quattro lì la possono ancora vincere tutte, però a me sembra che ci sono 13 punti, credo, sulla quinta, no? Adesso poi non so che sta facendo lo United, in questo potrebbero diventare 10, perché lo United sta vincendo 1-0 sul campo del Chelsea. Però insomma, 10 punti sono sempre tanti. 10 punti, 13 partite sono tanti. Sì. Siamo alla pausa. Grazie, Nicola. Ciao, Nick. Grazie a voi. Saluto a Pier. Mi manca sempre le sue barzellette. Grazie. Grazie, Nicola Ruggero. Ci vediamo presto. Ciao Pier, anche a te. Ciao. A domani. Ciao, domani. Ciao. A domani. Torniamo subito con Stefano da Roma. Mahrez in the end. It goes a long way. It's in from Huth. And Leicester City grab the lead early from the big defender Robert Huth. Well, what about that? It don't have to be like that. I guess you're insecure. It's Mahrez. 2-0 to Leicester City. Walk a little slower and I try to catch your eye. Sometimes here comes the corner kick and Huth is there again and it's 3. Robert Huth. Leicester City are in dreamland here. Manchester City 0, Leicester City 3. It's a crazy because it's a crazy Premier League, no? It's a good result. The players play very well, compact. They are very, very good players. But never we were afraid. We wanted to win here with a fresh mentality. Our fans are dreaming. That is fantastic. It's fantastic. There are a lot of teams, super teams, no? But we have to try now. Why not? Why not? We have to try. Tutti convocati. Tutti convocati. Ha fatto tutte le tappe, non gli è stato concesso niente, è andato a Catania, ha fatto vedere il suo valore e tutti hanno apprezzato il suo lavoro nella Fiorentina e avrà un futuro importante perché è un ragazzo intelligente, qualsiasi volta ci ho parlato ti dà quella sensazione. Siamo insomma colleghi ma anche amici, posso dire, è stato mio allenatore più volte, ci ho giocato insieme, quindi ci conosciamo da tanti anni. Bisogna smettere di dire dell'ambiente di Roma, che è un ambiente difficile, che non si può lavorare, che non si lavora. Facciamo un altro giochino, costruiamo lo stile Roma. Una sfida intrigante perché andiamo a affrontare una squadra forte con grandissimi calciatori, ma siamo consapevoli che ce la possiamo giocare perché siamo cresciuti molto. sarà un avversario difficilissimo da un punto di vista di ruoli contrapposti e noi troveremo una Sampdoria difficilissima da affrontare. Questa sera va in onda la sfida Spalletti-Montella, che improvvisamente è diventata una sfida tutt'altro che banale per la Roma. Io rileggo la classifica: alle spalle di Napoli e Juventus ci sono Fiorentina 46 punti, Inter 45, Roma 41, Milan 40. Quindi la Roma, vincendo questa sera contro la Sampdoria, salirebbe a quota 44 punti, 2 meno della Fiorentina terza in classifica, 1 meno dell'Inter, e se non sbaglio, chiedo a Roberto Renga eventualmente di correggermi, con entrambe le partite ancora da fare all'Olimpico. Sì, è vero. Giusto? È vero. Sì, intanto buonasera. Sì, ciao, è vero. Buonasera. No, e la Roma trova un'autostrada e adesso deve soltanto entrare, pagare il pedaggio e mettere la marcia, anche perché l'avversario... Io ho sentito Montella, Vincenzini è un ragazzo molto intelligente, un ottimo allenatore, però ho visto anche la Sampdoria, ho visto i cosiddetti rinforzi difensivi, insomma la Sampdoria in questo momento non sembra il massimo in Italia. La Roma ha questa grande opportunità. Sì, attenzione, perché anche il Verona non è il massimo in Italia, anche l'Udinese non è il massimo in Italia. È vero, però tu avrai notato che ultimamente le piccole, queste per esempio il Verona, il Carpi, il Frosinone eccetera, hanno dato segni di risveglio. Io mi aspettavo delle difficoltà, per esempio, per Juventus, Napoli e Inter, però la Sampdoria l'ho vista, io non ho mai notato segni di risveglio, anzi, dopo il mercato l'ho vista peggiorata, con Ranocchio do dietro, ragazzi. È un fatto che il mercato l'abbia indebolita. Se di Zuccanovic e De Der, è probabile che tu peggiori. Oh, diamo due numeri, perché questa sera Montella siede sulla panchina della Sampdoria per la 12ª partita di campionato, cioè esattamente quelle che ha avuto Zenga. A oggi il conto è 16-8 per Zenga, 12 partite contro 11, e io credo che un giorno Montella ci spiegherà che cosa l'ha spinto ad andare a sedersi su quella panchina. Forse abbiamo un po' più chiaro perché l'ha fatto Spalletti, anche se in questa autostrada che gli hanno spalancato Fiorentina, Inter e Milan, a me resta la curiosità di vedere stasera quanto dura la Roma, se va oltre il 60esimo, perché anche contro il Sassuolo il calo fisico è stato imbarazzante. Sì, il secondo tempo abbiamo visto due squadre, no? Una Roma e poi un'altra Roma. La Roma del primo tempo è stata la più bella degli ultimi tempi e guarda, secondo me anche la migliore dell'ultimo anno e mezzo, oserei dire. Ma quella del secondo tempo era la solita, era la Roma di Garcia che non stava in piedi. E secondo me c'è una settimana di... No, una settimana no, ma ci sono parecchi giorni di lavoro nel frattempo. Da quanto è arrivato Spalletti? Circa un mese. In un mese la preparazione si aggiusta. E io so che lui sta lavorando moltissimo, che ha preso in mano. Beh, lui è partito dicendo che era tutto a posto, che non c'erano alibi fisici. Doveva far contento Pallotta. Certo. Poi gli ha detto che decide lui e i due preparatori. Adesso ha confermato, possono prendere gli appunti. Sì, ha parlato anche dei medici, ha parlato di tutti e vuole giustamente comandare lui, perché la brutta figura, se nella Roma non arriva terza, la fa Spalletti, non è che la fa il preparatore. E quindi fa benissimo, a me Spalletti sta piacendo molto perché ha stravolto la Roma, l'ha resa un'altra squadra, ha piazzato i giocatori in altre posizioni. Dove potrà arrivare questa Roma lo vedremo questa sera. E la domanda tua è quella giusta, quanto durerà la Roma? Però in casa secondo me dura di più, perché comunque anche se gli spettatori non sono moltissimi, quelli che ci sono si fanno sentire e l'occasione è particolare questa sera. Ricominci in pratica, ricominci a respirare e a vivere. Sì, significa azzerare la stagione e ripartire. Questo è vero, questo è certamente vero, però Roberto, stiamo vedendo che tutte quelle dietro la coppia regina stanno facendo, come dicevo prima, il volo del tacchino, cioè provano a sbattere le ali e non si alzano da terra, e questo a turno, l'Inter, il Milan, la Fiorentina, adesso la Roma, vediamo se invece è un tacchino e un fagiano. Diciamo che ci potevano essere delle differenze almeno fino a oggi per quanto riguarda Milan e Roma, perché il Milan veniva da alcuni risultati molto positivi. Oggi non è andato male il Milan, solo che non ha vinto. Invece ci aveva abituato a giocare malino, magari a vincere. Oggi Bacca addirittura ha avuto l'occasione e non se l'è fatta parare, che penso che sia un caso internazionale. Sì, la Roma è ripresa, e la Roma è ripresa, mentre la Fiorentina, anche se ieri è andata un po' meglio, e la Fiorentina mi sembra, non dico al lumicino perché non è giusto, ma mi sembra un po' in debito d'ossigeno. E sull'Inter sinceramente diventa difficile capire, non ci si riesce, perché tre gol su palla inattiva con la difesa dell'Inter. Che l'avrà studiato nelle università esattamente come l'errore di Bacca. Io già sto studiando. Però poi io vi do due numeri. Dal 20 dicembre, cioè da, prendiamo come data d'inizio il famoso Inter-Lazio 1-2, tu vai a guardare i numeri e vedi che nelle 8 partite il Milan ha fatto 15 punti, la Fiorentina 14, la Roma se stasera vince va a 15. L'unica che è crollata davvero è l'Inter, che ne ha 9. Beh, era prima in classifica, adesso guarda dove... Ma le altre più o meno si equivalgono. Sì, è vero, ma l'Inter rappresenta un caso stranissimo, perché i risultati non sono mai casuali, non erano casuali quando vinceva, non sono casuali adesso. Oggi avete visto tutte statuine in occasione dei 3 gol del Verona. È lì che ti chiedi anche, ma ci sono allenamenti specifici? Ma prima è intervenuto Gigi Cagni, Roberto. Dice che non sa quanto lavorino su quelle situazioni, ma la sua impressione è che non ci lavorino per niente. Ecco, vedi, sono d'accordo con Gigi, perché io non avevo mai visto prendere 3 gol così uguali, cioè con la difesa veramente, la difesa bloccata a zona. Nell'ultima occasione ho visto magari anche qualcuno che spontaneamente dei giocatori andava a marcare, perché io non ho niente contro la difesa zona, ma contro la difesa zona fatta con i giocatori immobili sì, perché non andavano a cercare la palla nella loro zona, erano fermi. Non mi era mai capitato, sinceramente, in tanti anni io cercavo di ricordarmi, mai. Poi però c'è stata anche la reazione dell'Inter, sì, su 3-1, sì, di nervi, credo più che di gioco, anche se in realtà il gioco non sta mancando in assoluto come occasioni in queste settimane. Io dico che paradossalmente il primo tempo del derby a me l'Inter è piaciuta, nonostante avesse questa formazione così strana. Hai ragione. Però secondo me manca quello che per esempio mancava anche alla Roma e che Spalletti sta cercando di rimediare, cioè di mettere uno in difesa che cominci a giocare bene la palla e poi uno in mezzo che la sappia giocare sul serio. Cioè Spalletti ha provato con De Rossi in difesa e poi con Pjanic a centrocampo e le cose, attenzione, per ora, almeno per 45 minuti in occasione dell'ultima partita a Sassuolo, hanno funzionato. Ma credo che Mancini porterebbe mezzo centrocampo a Roma per cambiarlo. Posso chiedere Pjanic, una cosa però, a tutte e due, a Giovanni Capuano e a Roberto Renga? Cioè c'è un giocatore che Mancini potrebbe inventarsi, non dico per far ripartire l'azione della difesa, ma come centrocampista di qualità tra quelli che ci sono adesso? No. Non mi viene in mente nessuno, non l'ha cercato. Non solo Pjanic, non c'è proprio. Non è che puoi prendere Jovetic e farlo dire lo faccio giocare mezzala. Non c'è niente da inventare in quella squadra lì. Lui non è un trequartista, è una seconda punta, un centravanti, uno che gioca. No, non c'è, ma lui Mancini non l'ha voluto, perché ragazzi, c'era già Medel, è andato a prendere Melo, è andato a prendere Condobbia, che è il paggio di Pogba, no? Era nella nazionale under 20 francese. Cioè non ha voluto giocatori con quelle caratteristiche, voleva dei giocatori forti fisicamente che mantenessero i quattro attaccanti e che poi nell'1 contro 1 i quattro attaccanti decidessero le partite da soli. Lui voleva questo, che per alcune partite ha funzionato, poi nei momenti alla lunga il gioco serve, cioè far girare la palla aiuta. Sì, sì, aiuta soprattutto nei momenti di difficoltà. L'Inter non sa respirare, per esempio. Sì, sì, vero. Oggi ha fatto una partita in apnea dall'inizio alla fine. È vero, ma se un regista qualsiasi, tu prendi una qualsiasi partita di Serie B, no? Di Gennaro, del Cagliari, ci metti uno che comunque sappia far girare la palla e già l'intercambia, secondo me. Sì, una volta che gli è scappato Yaya Touré, l'impressione è che Mancini ha detto, vabbè, allora facciamo un'altra roba. Allora mi arrendo. C'è il traffico, grazie Roberto. Ciao, alla prossima. Ciao. 800 24 00 24. C'era quella cosa là che volevo farvi sentire, ma quale? Magari domani. Traffico. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio. Progettofuoco.it vi presenta. Tutti convocati. Certo che loro si sente un odore di popò e che loro se la stanno facendo. Addirittura drop di Sergio, niente da fare. Niente da fare. Sarebbe stata l'apoteosi, ma abbiamo avuto forse troppo, no, troppa fretta Sergio, lui non l'aveva messo più. Ma gli è passato davanti, hai visto Flancar come gli ha dato la palla, gli è andato a fare il gol, mamma mia, peccato, peccato. Sicuramente non contento del risultato, del drop no, perché se ho deciso di calciare perché mi ritenevo, ecco, in una buona posizione per calciare, sono quelle situazioni che se va dentro sei un grande, se non va dentro sei, come dire, ti prendi le responsabilità, ma penso che la gente mi conosce, sono una persona che prende responsabilità nel bene e nel male. Prima di questa partita tutti ci davano per spacciati, pensavano che venivamo qua a prendere 30-40 punti e penso che oggi la Francia ha avuto veramente paura di perderla e noi siamo stati anche bravi. È da ieri sera che il mondo del rugby italiano si interroga se abbia fatto bene o meno a tentare il drop. Allora noi abbiamo convocato. Ieri sera che il mondo sportivo italiano picchia la testa contro il muro. Altro sì. Che... Giacomo Bagnasco e Mauro Bergamasco, chi Ciao. Vuole cominciare a darci risposte? Giacomo, ha fatto bene a tentare oppure no? Ma guarda, se vogliamo isolare tutto su questo episodio, francamente ti dico di no. Dovevo aver pazienza. Mauro Bergamasco, buonasera. Beh, io mi rifatto a quello che abbiamo appena detto. Io credo che una prestazione come quella di ieri dell'Italia, o comunque una prestazione in genere, non va mai portata isolata ad un'unica situazione. Tra l'altro poi non è nemmeno una situazione da isolare, perché fa parte del gioco, è una presa di posizione, una presa di responsabilità da parte di un giocatore, tra l'altro il capitano, e non è assolutamente da commentare. Bravo. No. No, ma poi quindi a me piacciono quelli che si prendono la responsabilità, dai. Sì, ma addirittura ieri in trasmissione non siamo almeno sentiti in obbligo di parlarne, perché comunque faceva parte di una partita. La partita andava giocata andava giocata in quella maniera come l'hanno giocata, e poi è una partita che si è giocata negli episodi dove la Francia è stata fortunata fino all'ultimo a poter portare avanti due punti più dell'Italia. Ma se ci fermiamo a parlare di episodi, come nel Mondiale 2007 si disse che Bortolussi metteva il calcio e passavamo i quarti, quella partita andava vinta diversamente, quindi oggi non mi sento di dire assolutamente che si sia fatto male, anzi, se l'ha fatto, l'ha fatto bene perché pensava di poterci riuscire. E lui giustamente dalle sue parole ha detto: è bello che quando lo fai diventi un grande, quando non lo fai ti prendono per un cretino. Sì, ha ragione, non vanno isolate queste situazioni. Ho letto che lo Ciccio era stato molto duro in un tweet nei confronti di Paris, voleva fare protagonista. È stato duro in diverse situazioni e questa volta ha perso un'ennesima occasione di poter chiudere la bocca, credo in questo caso. Quindi no, ma è facile aprire la bocca in questi casi, è molto facile. Io mi trovo in difficoltà alcune volte, giustamente, perché adesso ho questo ruolo nuovo che ricopro durante un Sei Nazioni, dove si parla dei giocatori con i quali ho giocato assieme, contro, però a un certo punto bisogna anche, insomma, farsi un attimo un atto di coscienza, bisogna capire un attimino quali sono veramente, siamo uomini di rugby, sappiamo parlare di rugby, appunto. Allora parliamo di rugby piuttosto. Sì. Sì, e non di drop. Giacomo, parlavamo venerdì della possibilità di prendere un trentello o invece della speranza di vedere una bella Italia. È uscita la seconda. No, abbiamo visto una bella Italia, una squadra concentrata e una squadra che aveva quattro esordienti, cosa che non è mai successa in una partita azzurra del Sei Nazioni. Direi che si sono comportati bene tutti e quattro, per questo direi che a volte anche i giocatori di eccellenza, siccome c'erano due giocatori esordienti che provenivano dall'eccellenza, che anche se si chiama così non è l'eccellenza del rugby italiano, perché abbiamo due squadre, Benetton e Zebre, che fanno la Celtic League, e l'eccellenza è tutto il resto del movimento italiano, sembrava un'eresia che questi due giocatori potessero giocare in nazionale. Probabilmente abbiamo dimostrato che questo è possibile e che in tutti gli sport, compreso il rugby, non bisogna essere pigri. Bisogna guardare in profondità perché si possono trovare dei talenti anche dove si pensa che non ci siano, soprattutto se si tratta di giovani. Mi pare che un giocatore diventato improvvisamente noto nel campionato italiano di calcio sia Kevin Lasagna, e ho letto che fino a 3 anni fa giocava anche dei tornei estivi. Sì, dove era qualche quindi, caso c'è. Un paio di gol ha fatti, ma ieri siamo andati un po' oltre. Mauro, è una situazione paradossale però questa. Cioè ci troviamo con un allenatore, con Brunel che è già l'ex CT, con un sacco di esordiente, andiamo in Francia e facciamo questa partita. Io eviterei di parlare di politica, perché questa cosa del CT uscente, CT entrante è politica fondamentalmente, perché siamo nel bel mezzo di un torneo delle nazioni, uno dei tornei più importanti al mondo, e soprattutto stiamo parlando di sport, stiamo parlando di rugby, okay? Che è uno degli sport più blasonati in questo momento e dove tutti quanti, anche chi non lo conosce ormai, si parla di rugby. Però parliamo veramente di rugby, non stiamo a parlare di chi c'è e chi non c'è. Io vorrei attaccarmi al discorso di Giacomo prima. Forse il fatto che questi ragazzi, non sono tanti, sono alcuni ragazzi, abbiano mostrato di avere le qualità, adesso bisogna considerare anche nel tempo, quindi la continuità, la possibilità di fare questa prestazione nella continuità, è una cosa che vedremo nelle prossime partite. Io spero vivamente, ho una grossa fiducia nei giocatori in questo caso. Bisogna farsi un atto di coscienza, bisogna pensare un attimino, dire forse non stiamo valorizzando in maniera adeguata determinati giocatori, oppure forse la formula che stiamo utilizzando in questo momento e le persone, e non, in questo momento non parlo di chi organizza, ma bensì di chi fa, quindi partiamo dal basso, forse stiamo facendo delle cose che non sono adeguate, sono dei giocatori che effettivamente hanno delle qualità, e allora... sono di più dei 40 giocatori, sì, degli 80 giocatori che fanno parte di due franchise, sono di più, però dobbiamo trovare il modo di valorizzare questi giocatori perché abbiano la possibilità di giocare all'alto livello, non solo per 6 settimane, 7 settimane con le selezioni, ma bensì magari per 8-9 mesi. Sì, abbiamo una base da cercare di valorizzare. Grazie Mauro. Ciao Mauro, grazie. A presto. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Mauro Bergamasco. Giacomo, con te poi ci sentiamo nei prossimi giorni, perché lo ripetiamo, Radio 24, ma non solo Radio 24, tutto il Sole 24 Ore seguirà con particolare attenzione questo torneo Sei Nazioni, che è iniziato con una sconfitta, ma per una volta è iniziato con una partita che ci ha riempito d'orgoglio. Grazie, ciao, Giacomo. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Grazie, alla prossima. Siamo quasi in fondo. A proposito degli allenatori che sbagliano i pronostici su altri allenatori, citano Maradona con Sarri, non solo Lineker sì, con il nostro io amico Ranieri. Sto aspettando da 50 minuti, mi state facendo aspettare da stupido. Non è io vero, sono arrivato prima di Sarri, prima di Cagni, sì, prima di Serena, di Pardo. Non è vero. I giocatori devono aspettare. Era la Rai. No, l'allenatore sta qua, sta là. Ci fermiamo sta qui. Su, sta io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata. Pietro domani Lacorte, Paolo Corleone. Alle 14. Fai bravo che dopo ti torna Gazzosa. Il nostro Angelo Veracruz. Torna alle 14 anche lui. Domani dopo il giro delle 14. Anche domani dopo il GR delle 14, ciao. Ma grazie, arrivederci a tutti, grazie. Ma che fretta! Ciao Roberto. Ma deve scappare.